Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, in particolare di 451 Frammenti Sonori. Siamo rientrati come ogni domenica intorno alle 23.35 circa. 451 Frammenti Sonori, dunque sulle frequenze 96.25 e 90, non me la ricordo più, pazienza. 94.7. 94.7. Bravo, bravo, sei preciso. E allora un buon saluto da Max Macchia. E da Eliseo Scarpa, chiaramente. Bravo. Dai, allora, grazie, siamo grazie. Rientrati e stasera rientriamo ancora in un altro senso, cioè ritorniamo dentro quel grande contenitore che abbiamo voluto aprire circa all'inizio fondamentalmente della stagione estiva autunnale del 2011, cioè il contenitore di Dubology. Abbiamo costruito già due belle puntate, belle lo diciamo noi per autostimolarci e autoincitarci, e stasera continuiamo questo percorso, anzi diciamo cerchiamo ancora di riempire questo contenitore con una terza puntata, Dubology 3, ovviamente con una declinazione dedicata a una tendenza musicale, a un percorso musicale che si è affacciato negli ultimi anni, denominato dubstep. Eh sì, contenitore certo sembra un po' brutto, sembra io il contenitore degli escrementi, sì, no, la bonezza, quello lo so che no, il cassonetto, un po' cassonetto. Beh, poi in realtà c'è qualche stradaiolo, cosa, dai, un po', no? Infatti c'è qualche cosa di tremendamente trash nella faccenda, ma non è il trash che insomma soprattutto negli anni 90 e anni 0 è andato molto di moda, il recupero insomma di cose irrecuperabili per riderci sopra. No, qua la faccenda è sporca e come, e viene dai sobborghi di una grande città come Londra, una megalopoli, una delle poche al mondo, perlomeno una delle poche occidentali, e Londra dopo anche molti anni, perché diciamocela tutta, era da forse dal periodo Wave che non esprimeva proprio come città, come spazio urbano, una musica così forte, così pregna e così appunto legata proprio a un suo suono particolare, una sua peculiarità. Dal sud di Londra, anche in questo senso, una sorta di ghetto cittadino dove ci sono questi dormitori tipo Croydon, dove insomma c'è di fatto insomma quelli che una volta era working class, adesso anche molti disoccupati o insomma precari vari, insomma abbiamo imparato anche noi a conoscere bene questa situazione, magari non in termini così urbanizzati, perché insomma non è riscontrabile una città come Londra in Italia chiaramente, e forse anche per questo non c'è poi quel suono così peculiare, appunto una sorta di architettura del vuoto, della periferia, che si connette sia certo di Detroit ma anche a certo ragga, però il ragga raffreddato, un ragga quasi scientifico, se così si potrebbe definire, seppur il basso molto potente preso direttamente dal dub ci rimanda a qualcosa di vitalistico, però un vitalismo insomma utopico e spostato verso un'altra dimensione, in questo senso appunto architettura vuota però fortemente scapica del dubstep. E iniziamo con uno dei protagonisti, uno dei progenitori potremmo definire, dopo facciamo anche due chiacchiere su quello che è stato un passaggio dalla drum and bass alla two step, che ha visto anche il protagonista appunto Plastic Man, che non è quello con la K, è quello con la C, anche su questo dopo facciamo due battutine. Plastic Man remix su Alter Ego, e ci tra l'altro riattacchiamo direttamente alla trasmissione di domenica scorsa sulla post techno, perché Alter Ego escono proprio da quella faccenda. Eh sì. Bene, iniziamo le danze, quindi il dubstep sia con voi cari. We'll be right back. Plastic Man, quello con la C e non con la K, ma anche su questo chiaramente c'è un giochino bello e buono. Ma c'è anche un altro Plastic Man, però. Ah, addirittura c'è un terzo. Sì, CH. Ma questa è un'altra faccenda. Adesso la devi spiegare. Però. No, vabbè, adesso no. Dopo ti offendi. No, ma è un vecchio soprannome del buon Max, quando usava un grandissimo plasticone per coprirsi interamente. A dire la verità, li usa ancora i plasticoni. Però sono diversi. Quello storico sembrava un sacco proprio. Era un sacco da ammonezza. No, era molto tecnoide, dai, un po' Matoiz. Eh sì, perché se lo ricorda, in effetti. Se lo ricorda, Matoiz. I momenti hardcore di Bologna, non nel senso del porno, nel senso della musica, della techno hardcore. Seppure in effetti aveva qualcosa di decisamente porno sì, a livello musicale, non solo, anche come luogo. Beh, Plastic Man, questo personaggio, anch'egli del sud di Londra, questa sera buona parte della musica proviene appunto dai quartieri sud londinesi, che è la zona insomma non stupenda di Londra, non quella insomma turistica che si va a visitare in genere quando si fanno quei bei viaggi a Londra, quell'immaginario insomma della, non neanche quelli della City chiaramente, che quella è un'altra faccenda. Beh sì, insomma, luoghi dove musiche che si avvicinano, e per questo insomma c'è una sorta di psicogeografia, quello anche di Detroit come località quasi dismesse, dove c'è un senso del vuoto. E l'altra volta parlavamo appunto nella post-techno di Antonioni, come avesse poi disegnato bene cinematograficamente proprio e architettonicamente questi luoghi già nell'avvento insomma industriale degli anni 60. Qua siamo oltre, siamo in una città che per tanti versi è stata svuotata anche appunto da momenti proprio di vita non completamente alienata, forse in questo senso anche molto notturna, a parte da questi voli escapici fatti a tarda notte da questi giovani che appunto fanno quasi una sorta di viaggio, di tunnel dentro la città, dentro gli inconeabili anche di questa, e trovano appunto nelle musicalità varie, dabbistiche, tecnoidi, è quello che appunto fu un momento di grande passaggio per le musiche inglesi, ovvero quella musica che ha attraversato anche tanto 451. Sì. Siamo nati come trasmissione anche legati alla drum and bass, un momento molto importante per il corpo dance, ma non solo, per il suono urbano, perché si stava modificando decisamente il suo lato e aveva inventato una formula assolutamente nuova. Il drum and bass, quando uscì, rimanemmo tutti un po' sconvolti per veramente la grande novità che creò. La drum and bass poi andò una sorta di vicolo cieco, dove da una parte si patinò moltissimo gezzandosi, ma anche creando una sorta di loungeria molto sterile, oppure diventò fin troppo hardcore. Il hardcore, il break che si creò fu decisamente, insomma, privo di filiazioni, molto chiuso dentro un suono quasi abbrutito e volutamente tale. E per certi versi il two-step nasce sia da quell'abbruttimento che da quelle forme più jazzate, seppur stilisticamente decisamente controllato, con quell'attitudine un po' più verso quelle sonorità anche hip hop che in Inghilterra si erano sviluppate, però attraverso la Ninja Tune, quindi attraverso forme, insomma, autoctone di pop e di traslazione di quello che era il suono americano. Qua diventa poi, la faccenda si complica, diventerà grime, diventerà quindi una sorta anche di ritorno dell'MC, del cantato, sia reggato che ipopeggiante, rappato. Invece con una parte del two-step si va verso quel suono che prima dicevamo, insomma, scientifico, decisamente tagliente, urbano, che è quello della dubstep, con quella filiazione grossa legata a un suono post-techno, di memoria, insomma, strumentale, quindi anche con sia una testa reggata, ma anche con un'altra testa molto legata al glitch, a quel minimal techno che l'altra volta abbiamo toccato per molti versi, al micro dub ad esempio di Paul, della Basic Channel, di certe cose di Fotech, decisamente fredde nel loro essere, insomma, sintetiche nel vero senso della parola, nel senso di sintetizzare veramente tanti umori sonori. In questo senso, insomma, sia Plastic Man che l'OEFA, che andiamo adesso a ascoltare, fanno così uscire da questa sorta di cappello, questo il cappello a cilindro, questa sorta di coniglio, direi decisamente urbano, decisamente anche un po' sporco, un coniglio scappato dal mattatoio, sì, infatti, una roba del genere, abbastanza maciullato, sì. Infatti anche l'OEFA, che in realtà in arte è Paul Livingston, produttore e compositore dubstep, anche lui, diciamo, è uno dei primi a portare avanti questo nuovo linguaggio musicale. Infatti non a caso l'abbiamo collocato all'inizio del nostro percorso storico sonoro, insieme ovviamente a Plastic Man. Anche lui è cresciuto nei sobborghi del South London, che giustamente Max indicava come una sorta di quartiere, di zona piuttosto off limits a livello turistico e a livello estetico, e chiaramente si vive in condizioni anche difficili, ma molte delle rivolte, delle tensioni nascono da lì. Proprio quando le sentite parlare a Londra, si parte veramente da quelle zone, perché il disagio è piuttosto ampio. E non a caso la musica rappresentata stasera sarà molto stradaiola, sarà molto combattiva e sarà molto vicina anche alle posizioni nostre, che non vi diremo mai, anche perché le avete già capite da mo'. Ma che devi dire? Che dobbiamo dire? Non c'è più da fare che da dire. Va bene, andiamoci a sentire ovviamente l'OFA, già anticipato da Max. In realtà è un disco uscito nel 2005 per la Tectonic. L'OFA, insieme a un'altra formazione importante della scena dubstep, Scream, l'album è Fearless. Ci andiamo a ascoltare una traccia e godetevi il viaggio nei sobborghi londinesi. I Siamo rientrati in diretta e abbiamo fatto un mix con l'UEFA, o come dice il buon Max, l'UEFA. Com'è che si pronuncia? Non lo so, sarà di origine araba? Araba, può essere, chissà, bisognerebbe chiedere a qualcuno. Finale. Infatti, con una formazione che ha fatto uscire l'anno scorso l'ultimo lavoro, Cloud City Vexed, formazione, un duo in realtà, anche questo londinese, uscito per la Planet Mu, un disco veramente splendido, copertina oltretutto assolutamente azzeccata, con una sorta di alba in lontananza su una città, su una metropole anche ben rappresentata in una foto abbastanza inquietante per certi diversi, atmosfere scure che si raccolgono in maniera piuttosto chiara nel brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, con una sorta di dub che emerge con una dimensione di profondità e anche di echi posizionati in maniera assolutamente azzeccata, e un disco in assoluto assolutamente da ascoltare, uno dei lavori più interessanti e una delle formazioni più interessanti della scena dubstep, i Vexed, anche per la loro grande versatilità di dimensioni, atmosfere sonore sempre molto differenti, ma accomunate appunto da una profondità estremamente coinvolgente, che dimostra quanto questo tipo di linguaggio possa avere anche un futuro molto molto aperto e molto intriso anche di possibili novità, di aperture inaspettate, perché è una musica che lascia ben intravedere anche in prospettiva. E dai Vexed andiamo a trovare un'altra formazione importante da uno degli ultimi lavori, e andiamo a presentare Code 9. Esatto, Code 9, come diceva appunto Eliseo, decisamente importante dentro il movimento, potremmo chiamarlo così, dentro il suono dubstep creato, a dire la verità vengono dalla Scozia e vengono come junglist, ovvero come quell'elemento che, di cui si parlava prima, drum and bass, jungle, qua dichiaratamente insomma traslato in una maniera post jungle, post drum and bass, quindi con tutto quel rimando che il post può dare, ma anche col quel senso insomma di scoramento molto forte che viene fuori dalla musica di Code 9, che però stranamente si tengono poi di ritmicità anche clubbistiche, quindi hanno questa dimensione anche decisamente fisica che riequilibrano il tutto, fanno quasi ricordare a una sorta di aggiornamento di quello che poteva essere il discorso della ninja mischiato con la warp, appunto in una dimensione nuova, urbana, decisamente fredda, ma non per questo insomma completamente disumanizzata, perlomeno a livello di corpo, a livello di fisicità, dove Code 9 non si scordano mai insomma di farci uscire delle ritmicità del tribalismo urbano, quasi una sorta di effetto sul serio di rimando, perché è un tribalismo anche abbastanza assurdo, passato dentro le macchine che più fredde non si potrebbe, però di fatto così funziona, come anche Code 9. Yeah. Beh, pezzo decisamente allucinante questo di Quarta 330, già non insomma, per Toru Koda, abbiamo detto del sud dell'Inghilterra, in realtà questa provenienza è giapponese, quindi tutt'altra faccenda che si trasferisce dentro quella sonorità urbana appunto del dubstep giapponese, che prende tanto da certi artisti elettro come possono essere Afrika Bambaataa, ma anche da certo techno pop spiritato, la Yellow Magic Orchestra, tanto per ricordare un riferimento giapponese, e poi appunto le musicalità nuove del dubstep, in questo caso sul remix appunto di Code 9, e quindi abbiamo chiuso, come dire, una bella parentesi su questa bella formazione, bel progetto Code 9. Quarta 330 ci faceva sentire una versione allunata del suono di Code 9. Eh sì, e ormai siamo in conclusione della prima parte di trasmissione. Tra poco partirà il Radio Giornale, Radio Popolare Network. Non so se è ancora Radio Monte oppure no, però quello si verificherà. Ma tra poco mi sa che è tutto Radio Monte ormai. Sì, ma Radio Monte. Mi sa che i monti vabbè, insomma, diventano delle pianure, vabbè, sì, ecco, bravo, l'hai capito, ecco. Rispianano. Beh, poi spianano tutto ormai. E chiudiamo con un progetto in realtà parallelo di una grossa formazione, delle più importanti dell'ambito dubstep, i Digital Mystics. In realtà hanno costruito altri due progetti paralleli, i Mala e i Koki. Ci andiamo a sentire proprio un lavoro dei Mala, Level 9, per chiudere la prima parte, per rientrare poi dopo il GR di Radio Popolare Network. Buon ascolto. Top.